quando si dice ma se la recessione dura, se la situazione dell'economia reale non migliora, ci sarà bisogno di una nuova manovra? No, non ci sarà bisogno di una nuova manovra perché sono incorporati margini di prudenza. Ci sarà questo venerdì in Consiglio dei Ministri un pacchetto sulle semplificazioni fiscali che sarà un primo elemento del ritorno in termini quali quantitativi dalla lotta all'evasione, cioè abbiamo dato alle autorità che si occupano delle entrate, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, strumenti senza precedenti che servono per la lotta all'evasione e anche per la lotta al riciclaggio, alla criminalità organizzata, come ha recentemente apprezzato il Procuratore Generale Antimafia. E per quanto riguarda l'aspetto più squisitamente fiscale, noi abbiamo un obiettivo evidentemente di ridurre il disavanzo pubblico, ma abbiamo anche l'obiettivo di restituire, non restituire perché non sono le stesse tasche, ma di far affluire ai contribuenti onesti in forma di minore aggravio fiscale, via via che il tempo lo consentirà, il gettito della lotta accresciuta contro l'evasione. Siamo molto fiduciosi che entro il termine che ci siamo dati di fine marzo potremo presentare al Parlamento un provvedimento con l'accordo delle parti sociali. Lo presenteremo comunque, speriamo di presentarlo con l'accordo delle parti sociali. Il tema è troppo importante perché possiamo consentire poteri di blocco troppo paralizzanti.